2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questa settimana iniziamo con una domanda. La domanda è: secondo voi quanti sono gli smartphone che vengono venduti in un anno a livello globale, quindi in tutto il mondo? Noi parliamo sempre e molto spesso di smartphone e ogni tanto facciamo il punto della situazione, tendenzialmente 4 volte all'anno, visto che i dati vengono aggiornati trimestre dopo trimestre. E adesso rispondiamo alla domanda, non so se alcuni di voi hanno cercato di indovinare e identificare un numero. Allora, Gartner ha pubblicato i dati di vendita di smartphone a livello globale per il 2019. Ovviamente ci sono anche i dati dell'ultimo trimestre dell'anno, ma noi ci concentriamo sul consuntivo 2019. Lo scorso anno sono stati venduti 1 miliardo 540 milioni di telefoni, con un leggero calo rispetto al 2018. Quindi il mercato rallenta un pochettino, ma sostanzialmente, insomma, è un mercato da oltre 1,5 miliardi di smartphone. Samsung si mantiene al primo posto con una quota di mercato di poco superiore al 19% e quasi 300 milioni di smartphone venduti. Al secondo posto Huawei, in crescita con il 15,6%, inseguito da Apple, che rimane sotto quota 200 milioni di smartphone venduti e una quota del 12,6%. Quarto e quinto posto per Xiaomi e Oppo, altre aziende cinesi. Ricordiamo che questi 5 produttori fanno circa il 63% del mercato. E stiamo parlando di quote di mercato come pezzi venduti, non stiamo parlando di valore, perché come sapete Apple supera tutti di gran lunga, perché ricava dagli smartphone, che sono tutti prodotti di fascia alta, diciamo medio-alta, ricava un sacco di soldi rispetto agli altri che hanno marginalità un po' più, anzi in molti casi molto più basse. Certo, sui top di gamma tutti guadagnano abbastanza bene, sicuramente non come Apple, ma quando scendiamo su prodotti da 300, 200, 150 euro, beh, lì i margini sono veramente molto molto bassi. Quindi ci sono produttori che vendono un sacco di smartphone con un livello di prezzo medio-basso e quindi hanno dei margini veramente molto risicati. Un ulteriore dato ha attirato la mia attenzione ed è il sorpasso dell'India sugli Stati Uniti, che con 152 milioni di telefoni venduti è oggi il secondo mercato dopo la Cina, che ne assorbe in un anno 390 milioni. Gli equilibri del mondo che si spostano. Allora, a proposito del mercato degli smartphone, l'ultima presentazione nel settore è stata fatta da Oppo con un evento in streaming. Devo dire che ultimamente molte aziende stanno passando a eventi in streaming. Direi che attualmente la maggior parte hanno proprio cancellato i propri eventi. Parliamo delle più grandi aziende di tecnologia, anche Google ha annunciato che cancellerà il proprio evento annuale, l'evento più importante di Google, anche se alcuni ipotizzano che qualche presentazione potrebbe avvenire in streaming. Comunque Oppo ha organizzato questo evento in streaming per lanciare il nuovo Find X2 Pro, che arriverà anche in Italia l'8 maggio 2020, sì, il prossimo 8 maggio, sostanzialmente il nuovo top di gamma di Oppo, ha tutto quello che deve avere oggi un top di gamma, ed è soprattutto una dimostrazione che anche Oppo è ormai arrivata al livello degli altri produttori, almeno dal punto di vista hardware. Poi bisognerà provare a vedere anche il software di questo prodotto. Comunque, insomma, siamo arrivati, per quanto riguarda i top di gamma, a prodotti che grosso modo, se poi guardiamo la parte fotografica, non dico che si assomigliano, ma insomma fanno fotografie che all'occhio del 90% degli utenti sono straordinarie. Poi alcuni di questi telefoni richiedono anche, per fare delle belle foto, una certa competenza. E invece ci sono altri prodotti che con software di intelligenza artificiale in modalità automatica fanno veramente fotografie fatte molto molto bene. Adesso altre notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che vede come protagonisti da un lato la britannica Sophos e dall'altra una società finanziaria americana. Sophos è uno dei leader della cyber security a livello globale, è stata acquisita per circa 3,9 miliardi di dollari dalla società finanziaria americana Thoma Bravo, che è specializzata in investimenti in aziende di tecnologia. Quindi sicuramente Thoma Bravo vede in Sophos un'azienda che ha flussi di cassa interessanti, ma anche pensa, visto che nel settore della cyber security ci sono ampi margini di crescita, pensa che la società possa crescere ulteriormente. Waymo, che è la divisione di Alphabet, ricordiamo che Alphabet è la capogruppo di cui fa parte Google. Allora, Waymo, che è specializzata in guida autonoma, è la società che sperimenta ormai da più di 10 anni automobili in giro per soprattutto negli Stati Uniti, è stata finora finanziata con risorse interne, ma gli investimenti necessari sono così importanti, sono così ingenti, che è stata presa una decisione ed è stata attivata una raccolta di capitali da soggetti terzi che hanno portato nelle casse di Waymo 2,2 miliardi di dollari. E questa la dice lunga della capacità di attirare interesse anche nel mondo della finanza da parte di Google. Anche Vodafone e il gigante giapponese dell'e-commerce Rakuten hanno annunciato un investimento in Space Mobile, un progetto che punta a realizzare la prima rete mobile satellitare a banda larga del mondo. Allora spieghiamo di che cosa si tratta. Mentre le nascenti costellazioni di satelliti, di cui parliamo abbastanza spesso, come Starlink di SpaceX, OneWeb oppure O3b, si basano su satelliti che trasmettono un segnale ricevuto da particolari antenne, questa costellazione, la costellazione di Space Mobile, promette di trasmettere un segnale 4G e poi anche 5G in futuro, ricevibile direttamente dagli smartphone che abbiamo in mano. Al momento non c'è una data di attivazione di questo servizio, anche perché per il momento è stato fatto un esperimento con un satellite lo scorso anno, quindi bisognerà lanciare questa costellazione di satelliti e per il momento, dicevo, non c'è una data di attivazione del servizio, ma un generico nei prossimi anni. Cioè loro dicono non ci metteremo tanti anni, alcuni anni, però non sappiamo se alcuni sono 2-3 oppure 7-8. Parliamo dell'israeliana Hilo, una startup che sviluppa chip per intelligenza artificiale, ha annunciato di aver raccolto 60 milioni di dollari che portano il totale dei finanziamenti a 88 milioni. A proposito di finanziamenti alle imprese innovative da registrare, nel nostro mercato in Italia i 7,5 milioni di euro raccolti da Enovia o Inovia, comunque c'è la E davanti, tramite la piattaforma di equity crowdfunding Back to Work, partecipata da Intesa San Paolo Private Banking. Il finanziamento è stato concluso grazie a 235 persone che hanno versato mediamente 32.000 euro. Ricordiamo che Enovia, abbiamo anche noi parlato di soluzioni, prodotti che sono stati sviluppati all'interno di Enovia, è specializzata nello sviluppo di idee e tecnologie, un'attività che è sfociata in 21 imprese, 9 progetti imprenditoriali che sono attualmente in incubazione e più di 50 brevetti depositati. Un'ultima notizia riguarda il mondo della robotica industriale. La giapponese Fanuc, che è uno dei più importanti produttori di robot industriali al mondo, ha ricevuto un maxi ordine dalla BMW per la fornitura di 3.500 robot da inserire nelle nuove linee di produzione della BMW a Monaco di Baviera. I robot saranno utilizzati principalmente nella costruzione di carrozzerie. Nel 2024 parliamo molto spesso di smartphone, che come dico sempre è diventato il telecomando della nostra vita, lo facciamo per fare tantissime cose, anzi le cose che facciamo con lo smartphone crescono ogni anno sempre di più, possiamo prenotare cose, mandare messaggi, utilizzarlo per quella che chiamiamo smart home, comunque automazione della nostra casa, insomma la lista di cose che possiamo fare attraverso le applicazioni sul nostro smartphone è veramente molto molto lunga, se non infinita, visto il numero di applicazioni che ci sono sugli store, sia sul Play Store che sull'Apple Store. In una giornata tocchiamo centinaia di volte il nostro smartphone e secondo gli esperti questo strumento è uno dei principali veicoli di diffusione di virus e batteri. Allora, visto il periodo, abbiamo pensato di dedicare qualche minuto a questo tema. Saluto Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Una domanda che ogni tanto ti faccio e ogni tanto mi faccio è come pulisco i display in generale, televisore, smartphone, però poi mi rendo conto che non li pulisco mai. Invece bisognerebbe pulirli ogni tanto. Questo sì, sia per vedere bene, per esempio per il televisore, che è soggetto evidentemente come tutti i vetri alle ditate, e sia anche, abbiamo scoperto sulla nostra pelle anche in questi giorni, sia ovviamente per motivi di igiene. Se noi guardiamo i manuali dei prodotti, cautelativamente questi dicono semplicemente di pulire tutti i display con un panno asciutto, oppure con un panno leggermente inumidito, ma leggermente, e senza additivi chimici di alcun tipo, il che ovviamente può servire magari per cancellare le ditate dal punto di vista estetico, ma probabilmente dal punto di vista igienico non aiuta più di tanto. Evidentemente invece forse il consiglio, soprattutto in questa fase, è quello di porre un pochino più d'attenzione su questo fronte. Ammetto che per la prima volta negli scorsi giorni ho pulito, anzi tutti i giorni ormai pulisco almeno gli smartphone che uso, e poi cercheremo di capire che bisognerebbe pulirli ogni 10 minuti, ogni mezz'ora, perché tutte le volte che poi uno tocca altro, ritocca lo smartphone, è una cosa abbastanza complicata. Saluto e vogliamo coinvolgere anche il professor Fabio Mosca, che è direttore della neonatologia e terapia intensiva neonatale presso la Fondazione Cagranda, l'ospedale maggiore policlinico di Milano. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Noi l'abbiamo invitata perché parlando di questo, Gianfranco mi diceva: guarda che addirittura è stata introdotta recentemente una procedura per regolare, regolamentare o addirittura vietare lo smartphone in reparto. Da poco tempo, che cosa avete fatto e che cosa avete introdotto? Abbiamo introdotto una regola che è molto semplice, non è tanto una regola, è un divieto. Non si usa il cellulare vicino alle culle, alle incubatrici, dove ci sono i neonati. Quindi è vietato utilizzarlo e il motivo principale è perché è un veicolo di infezioni? I motivi sono due. Il primo è che è un veicolo di infezioni. Il secondo è che è un mezzo col quale ci si distrae. E quindi sono due cose che sono nemiche della cura corretta dei neonati, sia quelli che stanno bene, soprattutto di quelli malati. A questo riguardo è un'iniziativa che, come Società Italiana di Neonatologia che presiedo, intendiamo estendere ad altri reparti. Alcuni hanno già adottato, come la Mangiagalli, queste indicazioni. Lo avete fatto da poco in concomitanza con i fatti che commentiamo tutti i giorni o avevate già iniziato da un po' di tempo? No, è un progetto che dura da qualche mese, quindi abbiamo incominciato in realtà da un mese, però non c'è nessuna coincidenza, c'è una coincidenza con l'infezione da coronavirus, ma il progetto era indipendente. Certo. Perché comunque il tema del rischio delle infezioni in neonatologia è un tema che è frequente, caldo, e quindi tutto quello che serve per ridurle benvenga. Certo, noi partiamo da un caso specifico all'interno di un reparto delicato come quello dove ci sono bambini, ma questo vale in generale per tutti, o stiamo esagerando a dire che bisogna pulire lo smartphone comunque quando l'abbiamo toccato, magari lavarsi le mani? Nella vita di tutti i giorni direi di no, perché appena tocco con le mani qualsiasi altra superficie dovrei lavarmi le mani sempre se voglio ridurre la carica batterica delle mie mani. La carica batterica fa parte un po' del corredo che c'è, batteri che stanno sulle nostre mani. Il problema è che questi batteri si possono diffondere. Quindi se sono a casa e guardo la televisione mi lavo le mani, ma non ogni minuto. Se sono in ospedale e devo accudire un neonato che ha delle difese che sono ridotte, ma non riguarda solo il neonato, riguarda anche la persona che ricoverà il reparto. Ci sono degli studi fatti negli adulti, nei reparti di terapia intensiva, uno anche nel nostro ospedale. Quindi in realtà dovrebbe essere una regola che si dovrebbe diffondere negli ospedali dove c'è un problema di infezioni ospedaliere. Questo non è evidentemente il motivo principale, ma è certamente una concausa. Certo. Il telefono cellulare è pieno di batteri. Quindi... batteri anche virus? Dunque, sui virus in realtà non c'è tanta letteratura, anche perché la ricerca dei virus, al di là di che se ne parli tanto adesso, è un po' più complicata. Quindi gli studi intanto che abbiamo a disposizione riguardano batteri, e di quelli c'è una lunga fila di batteri patogeni che sono poi batteri spesso anche resistenti agli antibiotici, e quindi bisogna assolutamente ridurre la carica intorno ai pazienti. Quindi i cellulari devono stare lontani dai pazienti, e questo ovviamente non riguarda solo gli operatori. Nel caso della neonatologia ci sono anche i genitori, quindi la procedura che noi abbiamo introdotto è una procedura che vieta l'uso del cellulare anche ai genitori. I medici e gli infermieri devono dare buon esempio. Certo, quindi diciamo che se io pulisco, soprattutto in questo periodo, lo smartphone, molto spesso, forse esagero un po', lei dice? No, in questo momento in particolare dove c'è il problema del coronavirus, siccome peraltro quello che serve per disinfettare lo smartphone è semplicemente dell'alcol al 70%, che sappiamo essere molto efficace nel distruggere anche il coronavirus, ben venga. In questo periodo bisogna lavarsi più spesso le mani e tenere più spesso pulite le fonti dove possono stare i batteri, in questo caso il coronavirus. Il coronavirus vive nell'ambiente, e quindi è assolutamente necessario prestare maggiore attenzione a tutto l'ambiente che ci circonda, non solo in ospedale ma anche in casa. Professor Mosca, una domanda. Ogni qualvolta noi praticamente ritocchiamo lo smartphone, invalidiamo in qualche modo la sanificazione delle mani, che oramai è diventato quasi un rito ricorrente, quella che facciamo col gel alcolico, cioè sarebbe bene in qualche modo rifarla, o viceversa ogni volta che laviamo, che puliamo, diciamo, sanifichiamo lo smartphone col gel alcolico, per esempio, come consigliato, e poi lo ritocchiamo, siamo punto a capo? Sì. La regola che abbiamo introdotto è semplice: arrivo in reparto, arrivo nel filtro del reparto dove mi devo lavare le mani, prima di lavarmi le mani disinfetto con la soluzione alcolica il mio cellulare, me lo metto in tasca con la vibrazione, mi lavo le mani seguendo le norme e il cellulare non lo uso più in presenza dei bambini. Se mi capita di essere nello studio medico o sono chiamato per qualcosa di emergenza, se sono di guardia e devo riprendere in mano il cellulare, lo posso fare, ma poi mi devo rilavare le mani prima di disinfettare il cellulare. Perfetto. E un'altra domanda riguarda invece i totem interattivi che spesso si trovano, ahimè, anche negli ospedali, ma nelle stazioni, banalmente per andare ad acquistare un hamburger, molte volte si opera su questi touch. Quindi per estensione, vi è più che si tratta di touchscreen multiutente, questi richiederebbero una sanificazione pressoché costante, o comunque dopo averli utilizzati il consiglio è quello di sanificare le mani. Assolutamente sì. I totem, le tastiere, gli schermi touch si comportano esattamente come il nostro cellulare, con una modalità un po' diversa. Il nostro cellulare, adesso io li sto sputacchiando direttamente, lei capisce che le indicazioni sono di stare ad almeno un metro di distanza per non prendersi le goccioline che hanno dentro poi batteri e virus. Il mio cellulare, in questo momento che parlo con voi, viene tranquillamente inondato. Il totem molto frequentemente lei si avvicina, magari in silenzio, però molto spesso oltre all'arrivo dei germi con le mani c'è anche quello appunto per via respiratoria. Quindi in questo momento particolare in cui stiamo lottando contro il coronavirus, io userei particolare attenzione anche su questi aspetti, e comunque quando tocco queste cose è meglio poi disinfettarsi le mani e non portarsi le mani in bocca. Ah, certo. Professore, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Gianfranco, questo è importante, cioè noi abbiamo tanti touch a disposizione e dovremmo porre attenzione a tutto quello che noi abbiamo e tocchiamo, e dovremmo poter pulire, o comunque, come abbiamo appena detto, dovremmo pulire le mani. L'interfaccia touch è quella più naturale possibile, abbiamo detto, il bambino la prima cosa che fa indica e tocca col dito, e si è sempre detto, rispetto al mouse, rispetto alle tastiere, rispetto ad altre forme di interazione, forse quella vocale magari è ancora più naturale, ecco, diciamo così. Quindi abbiamo anche gli assistenti vocali che permettono di evitare il tocco, ma l'interfaccia touch è assolutamente naturale. Ma allo stesso modo col quale non è stato dato un consiglio, anzi più che un consiglio, un dettame ufficiale, proprio quello di non stringersi le mani salutandosi, ecco, forse è meglio non stringere le mani anche con alcuni device, o comunque dopo che stringiamo le mani con i nostri smartphone, e anzi soprattutto se non sono solo nostri, pensiamo certo, per esempio alle tastiere, anche le tastiere del computer, magari di una postazione multiutente. Ecco, sì, questa sì, per esempio richiederebbe una, probabilmente, adesso io non sono certo un igienista, ma adesso è ovviamente un virologo, però abbiamo, diciamo, sentito, no, se per estensione mi da poter dire che anche le tastiere dovrebbero essere sanificate. Ahimè ci sono poche tastiere lavabili. Le tastiere lavabili sono molto costose e realizzate soltanto da produttori che fanno prodotti sanitari, quindi per gli ospedali, perché gli ospedali devono evidentemente continuamente sanificare le tastiere. E qualche volta, devo dire, anche negli uffici probabilmente sarebbero consigliabili tastiere lavabili, ma soprattutto sarebbero consigliate poi procedure per di lavaggio, perché se ho la tastiera lavabile ma la lascio lì, è punto a capo. Certo, sicuramente le cose che stiamo dicendo in un periodo normale sarebbero considerate un po' esagerate, però una buona pulizia anche del nostro smartphone non fa male, perché magari non ce ne siamo accorti ma ci siamo presi un raffreddore proprio perché lo abbiamo dato a un amico, ci siamo toccati eccetera, adesso in questo periodo a maggior ragione, o banalmente lo tocchiamo noi dopo aver toccato altro. Certo, no? Sì. Ma senti, come lo puliamo? Allora, il professore ci ha già detto qualche cosa, ad esempio in questi giorni io usavo l'alcol, però l'alcol potrebbe anche un po' danneggiare, però è molto volatile, quindi non mi preoccupo molto. Sì, l'alcol molto. Non è molto volatile, è molto volatile, quindi non ha pochissimi residui che restano, penetra molto però perché ha una tensione superficiale molto bassa, quindi forse è meglio usare il gel alcolico, che è quello che si usa anche per sanificare le mani, con qualche accortezza, ecco, sia per l'alcol, sia per il gel alcolico, sia per qualsiasi altro metodo, anche il rubinetto si potrebbe utilizzare volendo, che il telefono abbia delle caratteristiche di impermeabilità che consentano un intervento di questo tipo. E non tutti i telefoni sono impermeabili, o comunque non tutti sono impermeabili allo stesso modo. Ci sono delle sigle che ci dicono qualche cosa. Allora, diciamo che ormai tutti i top di gamma permettono di essere addirittura immersi in liquidi. Sì, non a lunghissimo, però, non a grande profondità, ma non è questo il caso. No, quindi certo, tutti quelli che sono considerati impermeabili possono essere chiaramente facilmente sanificati, per esempio con un piccolo veloce lavaggio di gel alcolico, ovviamente se possibile dopo essersi sanificati le mani. Se no siamo da capo. Perché se no siamo punto a capo. Con una piccola accortezza forse, dobbiamo dirlo, il gel alcolico tende a lasciare piccoli residui, non è completamente alcolico, non è completamente volatile, non evapora completamente, e questi piccoli residui che all'inizio sono un po' gelatinosi e poi tendono a seccarsi potrebbero sporcare alcune parti, tipo per esempio le feritoie degli altoparlanti o le feritoie del microfono, degli speaker del microfono, eccetera, eccetera. Ecco, quindi non proprio un, diciamo, non consiglio di annegare i device, ma di passarli velocemente, magari tenendosi un pochino più alla larga da questi piccoli fori, che pur essendo stagni, però poi se si tappano poi si sente male il microfono e si ascolta male. Bravissimo, infatti volevo fare una aprire una parentesi e poi chiudere la parentesi a proposito del microfono. Se non si pulisce mai il telefono, a volte succede, purtroppo noi che tutti i giorni connettiamo persone al telefono per intervistarle, a volte si sente male, ma non perché il telefono sia di scarsa qualità, non perché la linea sia di scarsa qualità, ma perché uno non lo pulisce mai, si sporca il piccolo foro dove c'è il microfono e automaticamente si sente male. Quindi bisognerebbe anche usare quell'accortezza, magari con un piccolo spazzolino ogni tanto pulire quel forellino che di solito si trova nella parte inferiore dello smartphone. Sì, sì, e dualmente ovviamente la parte degli speaker, il suono poi esce male. Certo, certo. E quindi comunque sono... diciamo che a noi ci interessa il microfono per farli sentire la radio. Sentire bene, certo, però, egoisticamente certo, capisco. Esatto. Senti, uno per sapere se il proprio telefono può essere bagnato senza problemi, che sigle deve guardare? Ma c'è un codice che è quello di protezione che ha la sigla IP, quindi Imola Palermo, seguita da due numeri. I due numeri hanno un significato preciso secondo una leggenda che è possibile anche trovare su internet facilmente, ma in ogni caso la leggenda, nella leggenda il primo numero sta a identificare la protezione rispetto ai corpi solidi, tipicamente polvere e sabbia. Perfetto. Che in questo caso ci interessa meno. Quello che conta di più è il secondo numero, che è invece la protezione nei confronti dei liquidi. E zero significa nessuna protezione, e via via salire fino a 8, che 8 significa protezione totale, può essere immerso anche a tempo indeterminato. Quindi IP68 è il massimo. Puoi 68 è il massimo, okay. Il massimo 6 è il massimo della protezione nei confronti delle polveri, certo. E 8 è il massimo della protezione nei confronti dei liquidi. Mm-hmm. Quindi un IP68 sicuramente può essere sanificato, ma non soltanto l'8, anche un 7 che prevede per esempio un'immersione temporanea, come la stragrande maggioranza dei TV, degli smartphone che sono impermeabili, un IP67 va benissimo, ma anche un 66, un 65 che resistono agli schizzi ripetuti e da tutte le direzioni, quindi vuol dire che sono stagni. È chiaro che l'immersione crea anche una pressione sull'apparecchio e quindi il liquido può penetrare più facilmente se c'è qualche vulnerabilità. Invece gli schizzi non creano una pressione maggiore rispetto a quella atmosferica e quindi il liquido semplicemente non entra. Ecco, quindi un IP 60, adesso dico 60, ma potrei dire 30, 40, non importa, ma 66, 65, anche 64 probabilmente è più che sicuro per fare una sanificazione. Ovviamente la sanificazione non vuol dire usare qualsiasi agente chimico. Il gel alcolico sappiamo che è sufficientemente sicuro per questo tipo di utilizzo, ma magari, non so, la candeggina sanifica altrettanto, ma non la userei. Non userei degli acidi, non userei delle cose perché di questo poi tipo. Si rovina lo schermo. Sì, si rischia semplicemente di danneggiare o di opacizzare il vetro, che delle volte è vetro, ma delle volte anche un materiale anche a base, diciamo, plastica, è un polimero che rischia di essere intaccato da dei materiali acidi. Ti faccio una domanda sui televisori. Usiamo gli stessi prodotti, perché ogni tanto pulire il televisore è una buona cosa, anche solo dalla polvere, c'è gente che non pulisce mai il televisore, o usiamo, che ne so, uno spruzzino per i vetri, cose del genere. Io consiglio questo, anche se non lo troverete mai scritto nelle istruzioni per i motivi di qui sopra, perché poi nella cautela degli operatori prima che uno usa un pulivetri che è molto aggressivo. Ecco, diciamo, però tutto quello che è gentile, ecco, può essere utilizzato, come pulireste un paio di occhiali, tanto per intenderci, un vetro di casa, quello mi sento di poterlo assicurare. Devo dire che, visto che ci siamo e che ne abbiamo parlato, magari una pulitina anche al telecomando, che è l'unica cosa che si tocca del TV. Bravo. Magari sì. Consigliabile proprio perché per così, ma questo qui al di là del coronavirus, una buona norma di igiene. Io ho visto telecomandi che voi umani, cioè tutti voi avrete visto telecomandi che... Sì, che dico che le tastiere dei computer credo che possano anche essere peggio, soprattutto sì. Quando sono chiare perché manifestano di più, ma quando sono scure forse sono anche messe peggio, ma non si vede. Esatto, la mia qui in redazione è nera, ecco. Quindi sì, però la polvere si vede. Gianfranco, prima di salutarci c'è una... che è anche una notizia di questi giorni, perché addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di non toccare una cosa che molti di noi usano tutti i giorni e toccano e fanno toccare tutti i giorni. Sì, in realtà è un vecchio tema, è quello dei contanti, che si sa, è noto che siano comunque un vettore di agenti patogeni. In tempi meno preoccupanti ce ne si preoccupa molto meno. Diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ritenuto sottolineare questo aspetto e di consigliare l'unico pagamento assolutamente sicuro, cioè quello contactless. Quindi appoggio la carta di credito sull'avvicino, praticamente tenendola in mano io o il telefono, pagando col telefono. In questo modo non solo non c'è traffico di contante, quindi che ovviamente gira per mille mani e crea poi una circolazione potenzialmente enorme, ma neanche consegno la carta di credito nelle mani di un operatore terzo che magari ha toccato dell'altro, e quindi per inserirla banalmente nel POS, e poi mi restituisce questa carta di credito e poi in qualche modo o sanifico la carta di credito o mi metto nel portafoglio qualcosa. Cioè, adesso non bisogna esagerare, però diciamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto: volete essere tranquilli, pagamenti contactless. Va bene, noi ne prendiamo atto, tanto sappiamo che oramai gli strumenti per pagare contactless sono veramente tanti. Molto bene Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie mille. Adesso noi facciamo una breve pausa, poi cambiamo argomento e vi offriamo una finestra sulla opportunità, necessità, dipende dalle volte, di poter o dovere cancellare contenuti che sono imbrigliati nella rete internet. A tra poco. Bentornati, io sono Enrico Paglierini, potete raggiungermi scrivendo a 2024 e radio24.it, potete raggiungermi anche attraverso Facebook, Twitter o LinkedIn. Vi ricordo che la nostra puntata, come tutte le settimane, è disponibile anche attraverso il nostro sito internet, la nostra applicazione per smartphone iOS o Android, o anche sulle principali piattaforme audio on demand come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutta la lunghissima serie di applicazioni per il vostro smartphone che vi permettono di gestire i podcast. Quelli di Radio 24 e anche quelli di tanti altri produttori di contenuti. Adesso cerchiamo di capire se e come, quando un contenuto che non ci piace o ci danneggia finisce in rete, se e quando è possibile rimuoverlo. Saluto Gabriele Gallassi, che è uno dei fondatori di Tutela Digitale, che ha da poco lanciato un servizio che si chiama Link Killer. Benvenuto 2024. Grazie. Voi avete lanciato questo servizio che viene erogato tramite app che si chiama Link Killer, quindi tradotto un sistema che cancella dal web un link che potrebbe essere una notizia, un video, qualcosa che ci danneggia. Spiegami in cosa consiste. Esatto, hai detto bene. Praticamente abbiamo creato un'applicazione mobile, quindi scaricabile nei principali store, che permette di segnalare un contenuto che possiamo definire negativo, quindi illecito, quindi che può essere dalla foto al video, come dicevi tu, a una notizia, quindi un articolo di giornale che non risponde più al diritto di cronaca, può essere un profilo falso sui social network, quindi tutto il contenuto tutti quei contenuti che possono ledere o la privacy o l'immagine di una persona. A quel punto, avvenuta la segnalazione tramite l'app, c'è una breve analisi da parte nostra e interviene quello che è appunto il lavoro di eliminazione o deindicizzazione del contenuto. la persona che scarica l'app potrà vedere e monitorare in real time quello che è appunto il diciamo lo l'attività status che esatto. fate voi. Quindi quando il link verrà eliminato o deindicizzato riceverà una notifica push tramite il telefono e a quel punto diciamo che il lavoro è svolto. Questo in estrema sintesi, naturalmente, come puoi immaginare, c'è molto dietro, quindi l'analisi del contenuto, quindi che cosa si può andare effettivamente ad eliminare, quello che è la fattibilità dal punto di vista legale, insomma sono tanti aspetti che stanno dietro a uno strumento che noi consideravamo utile. Volevamo sostanzialmente creare uno sportello online per segnalare delle problematiche. Certo, per rendere più facile un'attività che si può fare in tante modalità, ma che non è sempre facilissima, è un po' complicata. Tu dicevamo che Link Killer, tutto attaccato, è questa applicazione realizzata, lanciata da Tutela Digitale. Voi vi occupate di tutele varie, copyright, diritto d'autore, anticontraffazione, cose del genere. Tu hai fondato la società assieme a Sveva Antonini, benvenuta anche a te. Grazie. Quali sono i limiti di questa attività? Perché non tutto si può cancellare, a volte è tecnicamente difficile farlo, ma anche a volte legalmente. Ci sono dei contenuti che è giusto anche rispetto al pubblico che rimangono online, quindi ci sono dei limiti a questa attività. Sì, prima di tutto, appunto parlando poi del diritto all'oblio, ci sono tutti questi contenuti che noi rimuoviamo, direi che il 50% dei contenuti sono collegati al diritto all'oblio, ovvero sono quei contenuti che non sono più di interesse pubblico, quindi pensa poi l'Italia, no? Un paese terribilmente causidico, quindi moltissimi soggetti sono stati magari indagati poi assolti, oppure sono amici di persone arrestate. Cosa succede? Che si mette nome e cognome su Google, vengono fuori magari tra i primi risultati, e statisticamente le prime due pagine di Google sono in assoluto le più interessanti, perché statisticamente l'80% delle persone non va oltre alla seconda pagina di Google in una ricerca, e quindi se vengono fuori contenuti del passato, sia che magari siamo stati assolti o meno dal processo, può essere un grave problema. Quindi tramite il diritto all'oblio si eliminano, e tramite appunto Link Killer si eliminano questi contenuti in grandissima velocità. Qual è un limite? Il limite è il diritto di cronaca, quindi il caso in cui un soggetto è stato appena indagato oppure è uscita la notizia sul giornale, viene da noi e dice voglio scomparire dal web. Ecco, in quel caso dobbiamo semmai azionare altri tipi di servizi dove andiamo magari a inserire dei contenuti positivi su questo soggetto per cercare di equilibrare un pochino la situazione, perché molto spesso succede a persone magari di una determinata generazione che sono completamente vergini sul web, quindi appena arriva la crisi reputazionale, quindi appena arriva la notizia negativa, sono invasi solo esclusivamente da quello, e quindi l'identità digitale della persona diventa solo il contenuto negativo, e questo è pericoloso. Certo. Gabriele, l'attività che fate con Link Killer è un'attività, immagino, che cerca almeno di automatizzare, rendere più fluido questo processo, cercando di togliere tutti i casi dove magari invece bisogna dedicarsi un po' più con attenzione di consulenza, come diceva prima Sveva. Cioè, ci sono dei casi particolarmente delicati che non sono così semplici, cioè laddove si può togliere contenuto, in alcuni casi bisogna lavorarci un po' con calma. I casi invece in cui le cose sono facili e semplici sono frequenti o no? Guarda, dal punto di vista della tempistica, e questo per rispondere alla tua domanda, i tempi medi sono dai 5 minuti a una settimana, nel senso che... Ah, quindi ci sono anche molti casi in cui è talmente palese, talmente evidente, che con i sistemi che poi ci racconterete voi si può togliere il contenuto velocemente. Esatto, diciamo che le tempistiche del web, nel bene e nel male, sono più veloci rispetto sicuramente a quello che può essere fare causa, quindi attivare un'azione giudiziaria per richiedere l'eliminazione del contenuto. Dall'altra parte, appunto, dipende che tipo è di contenuto e anche la quantità, nel senso che ci sono magari persone che hanno bisogno di eliminare una foto, ci sono persone che magari hanno bisogno di eliminare 1000 foto, quindi l'analisi cambia. È soprattutto anche la piattaforma su cui è appoggiato il contenuto, quindi può essere Facebook, può essere YouTube, può essere una qualsiasi. Una cosa importante, voi vi dedicate alla rimozione di contenuti che sono presenti sul web, quindi anche social network, non contenuti che magari circolano in ambienti privati, come può essere, che ne so, una chat di WhatsApp. Esatto, esatto. Mm. Tutto quello che è online. Che è online, è raggiungibile e visibile a tutti. Esatto. Sveva, allora, dicevamo dei limiti che, va ricordato, ci sono, quindi non sempre il contenuto che uno vorrebbe far scomparire può scomparire, tant'è che voi appunto avete spiegato, ricevete una segnalazione e poi dite se si può oppure non si può. Esatto, un altro limite mi è venuto in mente, sì, ad esempio, che ci capita spessissimo, riguarda i contenuti diffamatori o i contenuti, diciamo, negativi. Ad esempio, sai che adesso ogni tipo di attività, no? Ci sono i feedback sul ristorante, TripAdvisor, pensa, quindi magari c'è una recensione negativa, allora ci chiamano e dicono togliete la recensione negativa. Chiaramente la recensione negativa non si può togliere, cioè se è una recensione, una critica, quindi in questo caso il diritto di critica legittima, magari anche vera, è assolutamente, certo, rimane. Cosa completamente diversa invece, come spesso viene utilizzato ad esempio il termine truffatore, no? Vengono utilizzati termini molto, molto forti sul web, allora in quel caso è palesemente diffamatorio, allora certo che si può insomma intervenire per andare a rimuoverlo. Sì. Senti, che cosa fate voi cercando di automatizzare questo processo rispetto all'attività che tanti avvocati, tanti studi, cioè quello che fate voi lo fanno tante altre società, però voi anche tramite l'applicazione cercate di avere degli automatismi anche con accordi particolari, cosa fate? Allora, diciamo, l'applicazione funziona su un database di oltre 10.000 contatti a livello europeo e anche giapponese di testate, blog, siti, webmaster, internet service provider con i quali collaboriamo e per cui la segnalazione viene ad essere che parte in automatico tramite, diciamo, Linkiller, e quindi che può gestire in maniera massiva, quindi un numero grande, diciamo, di segnalazioni, di richiesta di rimozione, e permette un automatismo su questo e permette una grande velocità, quella di cui appunto parlava Gabriele prima, perché intervenire, diciamo, comunque puntualmente in molti casi è essenziale, ecco, quindi certo, i tempi della giustizia non tra sono tra questi 10.000 ci sono anche siti e social network tra i più famosi o in quei casi è un po' più complicato? Allora, chiaramente le piattaforme ci sono quelle più semplici con cui collaborare, con cui abbiamo ad esempio poi collaborazioni specifiche come ad esempio YouTube, ci sono piattaforme più difficili con cui collaborare tipo Facebook, anche se poi è migliorata molto Facebook nella tutela dei propri utenti a seguito appunto poi dello scandalo di cui è stato oggetto, quindi sì, si basa anche su accordi proprio specifici con piattaforme di social network. Quindi tu mi stai dicendo, se c'è un accordo, c'è un'attività che noi facciamo settimanalmente, mensilmente con tutta una serie di piattaforme, laddove ci sono le condizioni è più semplice far rimuovere un contenuto, perché altrimenti bisogna andare tramite canali della giustizia tradizionali che non sempre sono efficaci. Esatto, esatatto. E poi dopo diciamo che questa è la nostra società, come possono essere altri competitor, inviano segnalazioni, diciamo, in certo senso certificate, quindi anche il collaboratore dall'altra parte sa che una nostra segnalazione avrà sempre una base legale, cioè c'è effettivamente una violazione di un diritto. Cioè lo fate quando si può, esatto, fare. Esatto, non è che lo facciamo in ogni caso, quando ad esempio ci potrebbe essere un diritto di cronaca, dobbiamo dire al cliente mi spiace, torni fra 2 anni, torni fra 1 anno, oppure attiviamo un altro tipo di servizio. Sì, sì, sì, ecco. Sì. Gabriele, questo, se diciamolo subito perché a volte lo si dice alla fine, questo servizio non è gratuito. Allora, questo servizio non è gratuito, nel senso che l'applicazione si permette, naturalmente, permette di essere scaricata tramite, come dicevo prima, i principali store gratuitamente. Viene analizzata da parte nostra poi la fattibilità sì, e a quel punto viene proposta appunto un costo. Cioè, c'è un costo standard o dipende? È variabile in base al contenuto, al numero appunto di contenuti, quindi viene fatta appunto una... Cioè se finisce online un video che palesemente mi danneggia e voi dite sì sì sì, non c'è problema, agiamo per rimuoverlo, quanto costa una cosa del genere? Giusto per farmi capire. Guarda, partiamo da 50 euro a rimozione fino ad arrivare a quelli che sono i casi più difficili, quindi ci aggiriamo intorno ai 200 euro a link, quindi certo, lì il range più o meno è quello, dipende naturalmente dalla quantità che poi si viene a creare. Quindi mi fai degli esempi di cose che vi capita di rimuovere spesso? Cioè quali sono i casi più frequenti? Allora, diciamo, partiamo da quelle che sono le problematiche legate ad esempio al video e foto, quindi ci è capitato dalla soubrette che ha voluto cambiare vita, quindi aveva foto del suo passato e ha voluto eliminarle. Vabbè, questo è un personaggio però quasi famoso, la soubrette eccetera. Okay. Parliamo di persone normali, tra virgolette, poi nessuno è normale da vicino, come si dice? Allora, ci è capitato magari del ragazzino che aveva fatto un video su YouTube 5 anni fa e voleva eliminarlo perché non si riconosceva più. Il medico che è stato indagato e magari è stato assolto da poco tempo e quindi rimanevano sul web, su Google, nelle prime pagine, tutti quelli che erano gli articoli legati all'indagine, all'arresto. Quindi in questo caso diritto all'oblio. Esatto. Sveva, ci sono molti, dicevamo prima di iniziare a parlare davanti al microfono, ci sono un sacco di pentiti del web. Sì, ci sono, sì, perché oggi purtroppo appunto non si ha la coscienza di quello che si mette sul web di sé, soprattutto da un punto di vista video e foto, quindi tutti si fanno video, tutti si fanno fotografie, vengono messe e condivise con una grandissima leggerezza senza pensare alle conseguenze. E questo non avviene solamente offline, quindi inviando video tramite WhatsApp o Telegram, quello che può essere, ma anche online. Ad esempio ci sono tanti casi anche di ragazze magari giovanissime, anche minorenni, che fanno proprie fotografie, le vendono diciamo a delle piattaforme e accettano dei contratti online senza, come tutti quanti facciamo, anch'io molte volte faccio accetto sì. Senza, anche perché sono scritti talmente piccoli poi anche in realtà che leggerli sarebbe difficile. E dopodiché queste fotografie diventano magari di proprietà della stessa piattaforma, quindi poi andarle a rimuovere a posteriori, quando diventano grandi, devono presentarsi a un colloquio di lavoro, ad esempio riferendomi alla domanda che hai fatto prima a Gabriele, mi sono venuti in mente due casi altri che ci capitano, sono ragazzi che devono fare dei colloqui lavorativi e oggi il datore di lavoro si guarda il curriculum, ma la prima cosa che guarda è guarda sul web. Io stessa quando faccio colloqui guardo sul web o sui social che tipo di persona è, ecco. Sì, quindi se c'è un video di te che sei ubriaco e pacchi delle vetrine non è tanto bello. Esatto, esatto, ma anche cose minori, anche cose minori, perché l'identità digitale, cioè comunque uno acquisisce un po' l'occhio, no? Quindi sì, magari sì, guardando un pochino i contenuti che ci sono, uno si fa un'idea su una persona. No, un altro caso che ti volevo dire che è molto interessante sono invece crescono i ragazzi che chiedono di eliminare le foto che le madri pubblicano sui social, soprattutto le madri, e quindi si affiancano al padre richiedendo aiuto e tutela, perché appunto c'è questa, a parte il fatto che io lo dico sempre, è comunque pericoloso condividere, no? È un atto di vanità che viene comunque fatto dalle madri di mettere foto di bambini da tutte le parti, però oltre a essere pericoloso perché è comunque noto che i criminali diciamo di quel settore, i primi posti dove vanno a vedere sono proprio i social, ma e poi comunque magari contro la volontà e il consenso del minore, che però poi magari si trova foto in cui non si piace oppure si sente ridicolo, oppure per la mamma è tanto carino ma lui magari si sente un po' così interessante, ecco. Comunque mi confermi, lo vediamo dall'esperienza quotidiana, che è più forte di noi tutti, perché un po' tutti siamo ogni tanto vittima di questo click facile su o accettare le condizioni o pubblicare cose che non dovremmo pubblicare. Assolutamente. E quindi poi dopo c'è il pentimento, cioè c'è la crescita, il pentimento, e appunto poi vengono da tutela digitale chiedendo di eliminare appunto i contenuti, certo, per riniziare un'altra vita. Sì, vogliono dimenticare il passato. Vogliono dimenticare il passato e cambiano completamente vita, e allora ci chiedono, lì non sono contenuti negativi, lì chiedono non mi rispecchia più questa identità, io oggi mi sento un'altra persona, quindi voglio far sparire il mio passato e voglio che la mia identità digitale sia nuova. Ecco, sia. Quali consigli vi sentite di dare ai nostri ascoltatori per evitare, ovviamente non diamo troppi consigli perché poi sennò se tutti diventano bravi voi non lavorate più, tanto non succede. No, allora, innanzitutto l'aspetto preventivo, quindi bisogna, prima di tutto, stare attento a quello che si mette sul web, quindi non pubblicare qualsiasi cosa pensando che sia priva di conseguenze. Le piattaforme su cui pubblichiamo non sono nostre, sì, l'account è nostro, ma alla fine sempre stare attenti. Io dico sempre, se bisogna pubblicare sul web, quello cui non avremo problemi, che ci fosse il cartellone in Piazza Duomo, ecco. Allora possiamo sì. essere tranquilli di pubblicarlo. Seconda cosa, un po' di prevenzione, quindi anche semplicemente attivare un Google Alert che ci dà la possibilità di verificare, ci manda una mail ogni contenuto che viene pubblicato su di noi da terzi, chiaramente si parla di contenuti testuali, ecco, non di video e foto. Anche quello può essere un aiuto, perché comunque ci permette di controllare il web. I casi di fake news? Allora, le fake news, diciamo, noi le fake news non le trattiamo. Non le trattiamo perché è un tema troppo complicato. Sì, troppo complicato. E poi non è un palesemente illecito la fake news. Fake news, tu sì, devi sì. provare che è una fake news. Sì, quindi... sì, spesso non sono palesemente false, sono quasi false. Esatto, ci vuole qualcuno che dica. Ti fanno pensare una cosa invece un'altra, certo. Cioè, avessimo in mano un provvedimento di un'autorità giudiziaria che dice che quella notizia è falsa, allora sì che potremmo intervenire. Molto chiaro, molto bene. Grazie di essere stati con noi. Sveva, a presto, grazie. Grazie a te. Grazie anche a Gabriele Gallassi. A presto. Grazie. Il CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ha pubblicato il rapporto 2020. Mi sono fatto riassumere le novità da Andrea Zapparoli Manzoni, che è da sempre uno degli autori di questo rapporto. Innanzitutto un aumento degli attacchi del 7,6% rispetto all'anno scorso da un punto di vista numerico. Il cybercrime a questo punto ha raggiunto oltre l'80% del nostro campione, l'83% per la precisione, è il valore più alto di sempre da quando noi facciamo questa analisi, che ormai risale agli inizi, risalgono a 9 anni fa. Vediamo anche che le tipologie di minacce si stanno polarizzando, si stanno concentrando rispetto al passato in un numero più ristretto, quindi principalmente vediamo una crescita importante del malware, che a questo punto come vettore di attacco rappresenta quasi la metà del totale, con il 44%. Vediamo anche un incremento significativo del phishing e del social engineering, che impressiona, perché significa che ancora oggi queste tecniche apparentemente semplici e molto poco costose per gli attaccanti sono estremamente efficaci e hanno successo, e quindi chiaramente per gli attaccanti questo è un ulteriore vantaggio. Vediamo anche che gli attacchi di tipo industriale realizzati da organizzazioni criminali strutturate, quindi non più da hackers o da lupi solitari, ma organizzazioni complesse, sono in aumento, perché vediamo attaccare gli attacchi massivi verso decine, centinaia, migliaia o in alcuni casi milioni di soggetti in parallelo, il che richiede ovviamente organizzazione sia per realizzare l'attacco che poi per riciclare il denaro rubato. Vediamo un grandissimo aumento del ransomware, quindi degli attacchi basati su logiche estorsive, per cui vengono cifrati i file della vittima e poi viene chiesto un riscatto, che sono una quota significativa degli attacchi compiuti col malware e sono in crescita netta rispetto all'anno precedente. E con questo concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per averci ascoltato. Grazie per la vostra attenzione anche in questa versione, che è il nostro super podcast. Tutte le nostre interviste in edizione integrale e anche qualche cosa in più. Torniamo la prossima settimana. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10 in replica, oppure attraverso i nostri canali digitali, il nostro sito internet, la nostra applicazione, o anche attraverso le principali piattaforme audio. Chissà come ci state ascoltando, ad esempio in questo caso, scrivetemi per dirmelo, 2024 e tradio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana.